America 24 di Mario Platero. Buongiorno, vigilia di Natale, voglio raccontarvi una festa natalizia americana straordinariamente toccante, emozionante, la festa di Natale alla Casa Bianca. Il presidente Barack Obama e Michelle Obama hanno invitato un gruppo di giornalisti a partecipare a una di queste feste, hanno fatto 3 o 4 eventi alla Casa Bianca e devo dire è stato come sempre un momento magico, perché il Natale alla Casa Bianca appartiene a Hollywood, appartiene al sogno dei film, le decorazioni, le musiche, l'ambiente, il presidente che stringe la mano e dà il benvenuto sono ovviamente delle esperienze indimenticabili che voglio condividere con voi raccontandovi com'è il Natale alla Casa Bianca. Walking in a Winter Wonderland, grande canzone natalizia, grande classico americano, interpretato dalla banda dei Marine. E qui siamo nella hall della Casa Bianca, nel grande ingresso dove vengono ricevuti i capi di Stato e di Governo e dove in genere alla fine delle cene di Stato appunto c'è la banda dei Marines che suona e la gente balla. In questo caso non si ballava, c'era solo una gran quantità di gente e c'erano questi splendidi militari in una divisa rossa sgargiante che suonavano, erano un gruppetto di 5 o 6, in altre occasioni c'era una banda al completo magari di 15-20 persone, forse Barack Obama ha deciso di tagliare un po' sulle spese, ma l'effetto resta straordinario, come potete ascoltare dalla loro interpretazione di questa canzone e dal fatto che poi da lì si muovevano anche su canzoni di altro genere un po' più jazzate come questa. Vi racconto anche un po' come è fatta la Casa Bianca. C'è dunque questo grande atrio d'ingresso che si affaccia su un grande corridoio e alla destra estrema del corridoio c'è la State Dinner Room, cioè la sala per i pranzi di Stato, dove i presidenti americani offrono le cene di Stato. Dalla parte opposta c'è la East Room, che è la grande sala dove ci sono cerimonie, dove il presidente tiene le conferenze stampa. Quando lo vedete arrivare da un lungo corridoio su un tappeto rosso per una delle conferenze stampa formali, ecco, il presidente cammina in questo corridoio che si apre al di là dell'ingresso e fa il suo ingresso nella East Room. Sia la East Room che la sala da pranzo per le cene di Stato sono addobbate ciascuna in modo straordinario, devo dire. Per esempio la East Room è stata decorata ispirandosi a una notte d'inverno del 1835, quando il presidente Andrew Jackson ha trasformato appunto la East Room, questa stanza, in una specie di paradiso per bambini con palle da neve fatte di cotone, con canditi, con zucchero filato e con dolci di ogni genere. Oggi la East Room è stata di nuovo ridisegnata, o comunque le decorazioni della East Room sono ispirate di nuovo a temi d'inverno. Ci sono però anche dei pavoni meravigliosi, piccoli, dei pavoni in miniatura, ma con questi colori sgargianti. Il blu è il tema dominante della stanza, è il blu, e ci sono una gran quantità di storie sulla East Room, perché in mezzo a queste pareti Abigail Adams, che era la moglie del presidente, attaccava la sua lavanderia ad asciugare quando ancora la Casa Bianca non era completamente finita. Oppure il presidente Jefferson aveva diviso la parte meridionale della Casa Bianca in due per poter avere sia un ufficio che la camera da letto. Oggi, come dicevo, si tengono conferenze stampa, si tengono incontri molto formali e durante le cene di Stato c'è poi lo spettacolo, quindi ci si trasferisce dalla sala da pranzo, si attraversa il corridoio e si va nella East Room, dove in genere c'è uno spettacolo. Come cambia la musica. In questo momento, entrando in un'altra stanza, c'è un terzetto che suona musica classica. E dunque cambiano gli ambienti, cambiano le stanze. C'è la stanza rossa, la stanza blu e la stanza verde. In quella centrale, nella stanza ovale, quella blu, c'è il grande albero di Natale. C'è una gran tavolata centrale con salmone affumicato, con filetto, con formaggi, con delle frittelle. Nella dining room della Casa Bianca c'è un grande tavolo, e questo devo dire l'ho visto con tutte le presidenze, dove c'è la Gingerbread House, che è una riproduzione del biscotto al ginger, però con una riproduzione della Casa Bianca, e sempre una grossa riproduzione della Casa Bianca. In questo caso, con la Casa Bianca di Barack Obama, non c'era solo il biscotto, ma era completamente ricoperta di cioccolato bianco. C'erano anche due aperture in cui, come se fosse una casa delle bambole, si poteva guardare dentro, e c'erano delle stanze illuminate con dei tavolini. Subito di fianco a questa Casa Bianca, ed è questa la novità, questa Casa Bianca di cioccolato, sempre di cioccolato, c'era una riproduzione dell'orto di Michelle Obama. Run Around Sue, coro senza strumenti musicali. Questo è il coro di Princeton, dell'Università di Princeton. Sono situati questi coristi nell'ingresso in basso nella Casa Bianca, quello che è considerato il primo piano, diciamo il piano terreno, dove c'è la Map Room, per esempio, dove Roosevelt andava per seguire l'andamento della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono le camere delle First Ladies, e aspettavamo lì per poter andare a salutare il presidente, e in questo grande corridoio al primo piano c'era appunto questa corale che avete ascoltato. Qual è stato il messaggio di Barack Obama? Beh, intanto un ringraziamento, siamo noi ovviamente ad aver ringraziato lui per essere nati alla Casa Bianca, per aver celebrato, ha detto in modo molto semplice, questo regalo di questa stagione, questo grande dono di questa stagione, un momento molto particolare dell'anno che ci dà innumerevoli ragioni, grandi e piccoli, per essere grati di tutto quello che abbiamo ricevuto, del tempo che abbiamo potuto passare con le persone che amiamo, con la nostra famiglia, e ringraziare per la ricchezza della cultura che ci circonda, così come ce la godiamo in America, negli Stati Uniti d'America, il paese della libertà. E sottolinea che mentre le famiglie in tutto il paese si stanno riunendo durante questa stagione di vacanze natalizie, anche momenti difficili, ricordiamo l'America è in guerra in Afghanistan, possiamo riflettere sul piacere universale di essere allegri, di vedere che la buona volontà può portare molto, e trovare ragioni per rallegrarsi nei momenti in cui abbiamo questa vacanza che ci porta insieme. Vi auguro, ha detto Barack Obama, delle buone feste, ve le auguro anch'io. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno, sempre in spirito natalizio, spirito di allegria. Gene Autry, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi augura buon Natale, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you go down in history. America 24.